ci vuole la staffa quella adeguata. Tanto in base alla televisione è proporzionata la staffa, siccome dici tu, però devi anche ancorarla bene la staffa, ci vuole muro buono. Questo è Frattino, ma vabbè, se metti il tassello chimico già regge. Sì, ma voi, adesso non scaldabagno e non regge. Che vai, lo scaldabagno, la maggior parte è in verticale la forza. Infatti, avanti Natale. E adesso tra un po' mangio e così arrumaco. A chi devo andare a controllare un televisore che disturbo? Che siamo alle solite, no? Ma non vai, boh. Ehi, a so il bongo, a cui si doveva ricaria, lo dico. Perché io l'ho fatto attaccare all'antenna mia, eh? Il mio non lo disturbo e dici che lo so, io lo so che dici in benda, va. Prima non lo disturbava, ora lo so che dici in benda. Poi ho fatto l'impianto al ragazzo di cani in casa sua. Vabbè, là, lo controllerò e vediamo un po' cosa cazzo ha combinato. Ma sempre chi tu è? E chi ti dice muoviamo? A Biden della televisione a crocca per rompere le balle. Come dire, la storia è finita, pari, sa come sono. Lo sai che me ne ha tolto i tiranti dell'antenna e per poco me ne scende l'antenna del baracchino in terra? Sì. Per colpa di quel bastardo, e anche di spettoso, Però io l'ho avverto. Io un gatto ti faccio nuovo. Se mi succede qualcosa, segui. Insomma, ma perché li hanno fatti questi tiranti? Per rispetto l'ha fatto. E addirittura non mi ha detto manco grazie, non mi ha pagato neanche il capo che gli ho comprato e il partitore per farlo attaccare all'antenna mia. Ma chi fa l'antenna brasica è di un'altra capiscuria, non l'avrebbe più data. Li agevoli in tutto e per tutto a questa gente e poi ti rompono le balle. Va, siamo resisti. Adesso, ecco, a casa non ci venire più. Manca suonare il campanello, perché come suoni, prendo giù e ti apporto. Sei mesi d'ospedale, ti faccio. Oh, ti abuso il cane. No, se sono peggio io del cane. Infatti, una battuta per drammatizzare, no? Ma dai, che non mi viene più a rompermi le balle. Adesso oggi vado a vedere se è vero, se non è vero. Attenzione, canale 10, se andate a copiare qua la città di Porto Torre, cambio. 2-4 lo stavo disturbando, meno dell'omologato, dimmi tu. Se è possibile una cosa simile. Avanti, Porto Torre. Mi hai scacciato, Eugenio. Poi buonasera a tutti, allora signore, come va? Come va, io bene, e tu oggi? Parecchio senza sentire, non so se tu stai entrando, io poco. No, negativo. Sto entrando oggi, adesso praticamente, non perché sono attento, ma giusto perché sono a casa, sono in infortunio sul lavoro e quindi ne ho approfittato. Buonasera a tutti comunque. Capo, buonasera, spero niente di grave, Ma mi comio di portatore, se mi ascolti, cambio. La mi comio di Sassari, tutta la grande qua, sembra che sia in camera con me. Siamo in positivo. Ma Natali, tu non lo senti a Eugenio? C'ho lo squel chiuso. Poi non lo so se ci arrivo lì io, perché da dove va? Tutti vanno di si vai fin troppo. Eugenio, lo senti a Natalino? Sta usando 2 watt perché sta. Dicono forse che disturba. No, negativo, vero proprio. Anche perché ho un po' di propagazione a queste parti. Molte volte ci ha lasciato a 9. Non se ne è 9, fortissimo. C'ha la luce allo squelch un po' inserito e infatti poco fa avete parlato assieme. Sicuramente non ti ha sentito, involontariamente. Avanti Luca. No, io lo sento, oddio, non bene, che c'è un po' di cuore, un po' di propaganda sotto, ma già lo sento, dai. Beh, Sai, neanche qui non è che arrivi forte, però io non ho problemi di QRM, quindi lo tiro fuori bene. Per me Porto Torres è negativo perché, come sa, l'antenna ce l'ho dalla parte opposta, c'è il palazzo che lo copre. Che acquazza. Ma io voi due alla grande, di brutto. Perfetti, come sempre. Io sono, come si dice, aiutatomi. Ah, ok, ok. Guarda, io sono senza aiuto, mi ascolti lo stesso, Ruggero. Un attimo, una pasta. Alla grande. Io sto venendo fuori, no? Siamo un po'. 10 watt. No, io 2 watt mi ascolti bene lo stesso? Sì, come sempre, la grande, perfetto. E Antonio non lo sente, Antonio non lo sente Eugenio? C'ho lo squelch inserito. Ah, ok, dai. Va bene. Lascia vedere adesso, eh? No, non disturbano. Oh. Natalino lo sentivi? No, ragazzi, no, io Natalino per me è proprio coperto, non riesco proprio a tirarlo fuori. Non è che aveva cambiato posizione antenna, ma no, è uguale. Ma se fosse peggio. Ah, ho capito. Vabbè. E che ci vuole, no? Ci sei Natalino? Cosa mi racconti? Niente, è in fase di guarigione. Ho visto su Facebook che eri all'ospedale, cosa è successo, se si può dire? Mi hanno operato al naso. Ah, ho visto che eri tamponato. Ma lo sei rifatto, no? No. C'avevo setto deviato, turbinati, chiusi. La polipoisi. Ah, ok. Quindi soffrivi di apnea la notte, dai. Esatto. E adesso? Adesso no. Ma si può dire che respiro bene col naso. Quindi russavi anche la notte, così? No, questo non te lo so dire. Sono da solo e non lo so se è russo, boh. Adesso no, ma di solito via queste cose qua. Vabbè, comunque, ricordate che hai risolto. Sì, ho risolto. Per il momento sì. Mi asili, e tu filiale M4970 22 euro. Ragazzo, va. Cos'è? Ma da 2, 6, 2, ma sì, cazzo è brutto. Ma manco funziona quel lineare. Ma tu non hai propagazione, ma non senti questi, ora sono corsi il cranio, ora sono bu. Sì, io lo sento, sì. Sei rientrato? Sì. Cosa c'è? Propagazione? Cosa state parlando? Chissà che ci sarà sul 45. C'è propagazione sul 45? Vabbè, solo tu ci sei, tutti gli altri spariti. Ci sono, eh. Ehi, Natalie è rimasto qua, ma non l'abbiamo avvisato, forse sta mangiando a quest'ora. Sicuramente si è messo di fuori a prendere le pizzette tra un po'. Dove prendi? La Pudiche. Pudiche, dov'è, Via Cazzeretta. Ah, quindi a chilometro zero, dai. Chilometro zero. Una volta prendiamo i panini, aspetta dove prende mio figlio, da? Mi ammetto. Qui una traversa di via Pascoli comunque, da, per sale verso su. Gigi Pizza può essere. La traversa di via Pascoli? Può essere Gigi Pizza. Come? Gigi Pizza. È una traversa di via Pascoli, da via Pascoli sale verso il monte, dai. Ma salvo allora. Boh, aspetta che lo provo. Io mi ricordo Gigi Pizza, adesso lo controllo, aspetta. Gigi Pizza, non so chi sia. Sì, così si chiama, Gigi Pizza. Via Pietro Mica. Ah, ho capito, via. Dove c'era Coboringo prima? A volte quei panini quelli africani, come li chiamo io, quelli belli imbottiti con hamburger o cavallo, patate, salse. Ma intanto qualche sgarro ci sta, dai. Ma si è cambiato anno. Sì, ma sicuramente già qualche anno, sarà 4 anni almeno. Sì. Forse di anche di più. Sempre con un periodo la prendevo spesso, cavolo, spesso e volentieri. Goringo, perché Goringo mi ricorda un'altra cosa, non è che Goringo è più su invece, no? No, Goringo, Gigi Pizza. Sono accompagnata. Aspetta, vicino alla dentista. È attaccato, perché vedi, Goringo me lo dà ancora, pizzeria Goringo, per via Etero. Via Petro Mica, vedi, un altro è. Allora quello che è poco a poco più giù dal bar. Sì, ti ripeto, fai 50 metri fai neanche forse da via Pascoli. Sì. A contromano però la via. Io a volte lascio la macchina verso il Sacro Cuore, giro lì, sulla destra la lascio lì, all'angolo, e poi vado a piedi. Sì, è di cosa quella lì? Di... Conosco il padrone, è pelato il padrone. A volte ce li facciamo portare a casa, quindi neanche ci faccio. Dipende, se sono in movimento, se sono a casa me li faccio portare. Si chiama Luciano il padrone. Oh, lavora, le volte che sono andato, c'è dei ragazzi che vanno e vengono in moto, ma a nastro. Immagino. Vuol dire che uno lavora bene, dai, se c'hai clienti. Sì. Ecco. Conto per la connessione iniziale lasciare. Ma che si fa, boh? Non si conviene, stai smanettando il televisore. No, ma sono di funzioni, ah, un bel. Ok. C'ha un po' di funzioni, ma un bel. No, c'è anche. Cioè, vedere YouTube con la grandezza è bello, eh. Beh, se poi c'è una buona definizione. Sì, questo è un cazzo di 4K anche. Che allora, figurati. È pesantuccio, eh. È pesantuccio. 4K è 4 volte superiore al Full HD, figurati. Non sono sicuro, ma secondo me sì. Sono sicuro, non sono sicuro. Poi c'è questo tasto, non li leggo bene. Questo cavolo di occhiale, allora aspetta. Allora, c'è il... va bene. Devo smontare la telecomanda, chi è? Chiamo Rivero, Vigani. Adesso la faccio, poi non me lo smonto perché fa un po' schifo. Sgrassatore a 1000, pulisco la scheda bene con il... con l'alcol. Dovrebbe esserci già Rai, la Rai trasmette in 4K se non sbaglio, eh. Ma dovrei vedere il modello. Poi Hitachi è una buona marca. Sto leggendo qua, esistono già canali TV in 4K sul digitale terrestre, questo è scritto così. Sugli smart TV 4K con piattaforma integrativa ibrida HBB TV 2.0X, cosa vuoi, Rai 4K è già disponibile da anni su TV SAT, però trasmetto noi. Aspetta un attimo, due secondi, aspetta che se io gli faccio la foto, no? Agita un attimo, due secondi solo, così ti dico. Allora, qua c'è scritto, in inglese, HDMI Definition Multimedia Interfaccia, Hitachi 55HL, però non ci sto, tutto in inglese, importato da distribuito da gruppo industriale Vesiti, S.P.A. Società Universale, da Milano. Dolby Audio and in inglese, non so che si pronuncia comunque. Sì, il modello è 55HL. Prova a mettere canale 101, cosa vedi su 101? Aspetta. 101, vedo, reca 4K. Vedi allora che già è compatibile, dai. proprio la schermata blu, c'è la TV, è connessa ad internet ed è compatibile con la funzione HBBTV. Sì, sì. Qua dice Rai 4K, solo per TV 4K. Il vostro televisore deve essere compatibile col sistema HBBTV. Esatto. Se è compatibile, pochi secondi dopo aver sintonizzato il canale 101 appariranno automaticamente le trasmissioni Rai 4K ricevute in streaming da internet. Che dovevo fare? Quindi deve essere prima di tutto collegato a internet, deve essere collegato. È collegato a internet. E in più deve essere compatibile con questo HBBTV, che non so cosa sia questa piattaforma, là. Ah, boh. Se no, non lo vedi. Adesso bisogna vedere cos'è questo HB... e cose varie, dai. 105, HD. Non lo so. Non so, felice, vedere. 52. Ma come carica subito la schermata? La carica subito, bello, è bello. Ma guarda, ci vedo un affare. Infatti ci voluto la volontà che mi cambia. C'ho un 40 pollici qua dalla Sapa. Quello lo devo regalare. Sì, devo dire. Ieri l'hai vista la partita? Sì. Beh, cosa ti è sembrato? Come siamo messi? Perché anche io sono interista. Adesso abbiamo l'ultima partita. Guarda come va, la Mila l'abbiamo fatta in furia, la Mila doveva fare 3 gol per passare. E invece non hanno fatto manco uno, anzi ne hanno preso un altro. Tu pensa che quella ragazza sta facendo come interista, ma è milanista, la canitta. Oh yeah. Ma non c'è più con quella, come si chiama, Marina? No, lì già 3 mesi. Non lo sapevo, ero rimasto fermo lì, dai. Quindi è cambiato tutto. Ehi, l'estate sta iniziando. Dove fare? C'è un casino, stavo cercando un po' di avere un buon rapporto, solo che poi anche quello si è stancata. Che è stato Gianni? Ma che ho finito di fare tutto, sono stressato, in riposo 5 secondi, mi sdraio e mi ha acceso la radio, dai, questo è Luis, non so come sta andando, sto usando quello, dai. No, va bene Gianni, mi ha anche Gianni, ha cambiato, voi siete bene di cambiamento siete? No, io ho il telefono, non lo accendo, devo l'armadio, attaccarlo, io uso questo e boh, finché va questo, diciamo che non faccia come quello, la fine di quello di Natalino. Se adesso era geloso perché ha preso l'apparecchio nuovo, hai capito? E gli ha fatto il dispetto, gli ha fatto. E allora? Hai capito ciò che mi hanno dato, sì, in cambio, dalla TV. Gianni? Ehi, ho detto, ho dato una TV 32 pollici, in cambio mi hanno dato un Hitachi 55 pollici smart. Eccomi qua, dai. Aspetta che apro qui, che ci vedo un po' anche come sto uscendo, sì, ok. Siamo compresi nuda, fra. Ma stavo ridendo. Certo, due volte a mungiare. Attento, era Gianni. Non sai cosa, ci avevo due radio accese, non ricompri di uno. Sì, fra, cosa faccio? Ma quando me ne compro uno più piccolo. Ci ha pagato. 55 è già bello, quando ti guardi le partite, poi 4K non ne parliamo, già si vedono bene in Full HD, non oso pensare come si vedono in 4K. No, si vede bene, bello, bello, limpido, limpido, limpido, bello. Sì, diciamo, faccio i soldi e me ne compro un più piccolo. Questo meno di 2,50 non lo do. È nuovo, è fiammante. Guarda vedere quanto costa nuovo, hai guardato su internet. Flash, dai, ti dico, se ci puoi provare tu un attimo, che sto smontando la telecomando mi viene male adesso. Allora, Hitachi 55 HL 15, sei pronto a segnartelo? Ah, Hitachi 55 HL 15 W 69 I A finale, A maiuscola. Adesso provo a digitarlo, dai. Vedi com'è, sei a LED, non so come sia, ma sei a LED sicuramente. Sì, ormai sono tutti a LED, dai. Allora, vabbè, qui mi dà lo stesso modello, lo stesso. TV LED 55 Ultra HD 4K, Smart TV, decoder di seconda generazione, TV LED 3840x2160, Ultra HD. Dovrebbe essere quello, guarda che c'ha il piede lungo argentato. Sì, lungo argentato, sì, è quello allora. 15 W769. Fatto la farone, dai. Quanto costa? Non c'è, non, il prezzo non c'è, sicuramente non lo fanno più. Ma penso che costi un bel po'. Aspetta due secondi, che vado in bagno a sciacquare la telecomando, la plastica di sopra, un attimo, arrivo subito. Gianni, ci sei, riprendi. Eccolo qua, costa 800 euro. Ehi, cazzo. Che raga, ma tu l'hai aggiustato lui? No, l'ha scambiato con un altro più piccolo, questo tipo non gli andava bene, era troppo grande, quindi ha dato uno piccolo, forse un, non so se un 32 o un 42. Boh. Ah, ha fatto un affare, dai. E infatti proprio lui ha detto, oggi ho fatto un affare, ha detto. Capo. Ehi, va bene così, dai. Ti volevo chiamare, fra, e poi mi è sfuggito di... Ti volevo chiamare al telefono. E capo, quando vuoi? Chi è avanti? Poi ho la scena e Tyson. Me li chiedi la faccia. Ti sta lavando la faccia? Sì, no, ma che? Già mi vuole poco bene. Ehi, cane, si affeziona parecchio. Oh, questa qui è la mia ombra. Dopo un pranzo aspetta che io vada a riposarmi, mi guarda così, io andiamo. Invece quando lo lasci in casa rimane tranquillo? Sì, è abituato. E quella è una cosa buona, che non faccia casino, vai a casa. Ne abbiamo uno noi qua giù, che cosa c'è, un annetto, questi qui sono arrivati. Ma minchia, abbaia, spesso e volentieri abbaia questo qua. No, lui non è di quelli che abbaiano. Lui si avvicina alla porta, si sente il rumore, sta zitto, è l'occhio. Come apre la porta li brincannano. Ha già capito tutto. Oh, questo, se uno suona il campanello, inizia subito a abbaiare, eh. È indemoniato questo cane. Meno male che queste cane sono fatte bene, quando chiudi la porta non si sente più nulla. Però se lasci le finestre aperte a volte si sente, dall'esterno, dai. È un cane, bianco-nero, in un incrocio tra Viale Umberto e Viale Dante, quello, non so che incrocio è. Tra Vatesi e Frigorifero. Sì, un incidente, dai. Cavagava. Ascolta, il PMR ti ce l'hai a portata di mano? Sì, se vuoi sì. Che voglio vedere se riesco a arrivare col gommino. Su che frequenza? Non lo so, dammela tu. No, canale 1, 2, sono 8 canali se non sbaglio, non è PMR. Ma non ne ho io tabella. No, ma dico, tu ce l'hai canalizzato o a sintonia? Sintonia. Allora aspetta, devo guardare la tabella, dove ce l'ho? Aspetta che c'è la tabella. Dimmi il numero che c'hai tu, sintonizzato, io vado lì. No, che a me mi esce, una volta che mi hai messo il canale, non mi dà più la frequenza, mi dà il numero del canale e basta, quindi non lo so. Adesso guardo, aspetta. Dovrebbe essere allora canale 1 446 006 25, così è. Ci sei? No, aspetta, prova, Ma il mio è acceso. Che frequenza hai messo? Mi senti già là? No, si vede la lucetta verde, la portata ma non ti sento. Neanche io ti sento, eh. Quindi, che frequenza hai messo quindi? 446 006 25. Dovrebbe essere questo, io ho la penna, non penso di aver sbagliato. Allora, mi dice canale 1. Prova già. 446 081, prova fra. sono qua, attenzione 10, attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto, c'è qualcuno in ascolto, all'alimentazione che è attaccato, solo ed esclusivamente questo, all'alimentazione che è attaccato, solo non sorprende manco un cazzo. Attenzione Marco Condor, se sei all'ascolto, per un controllo. Marco Condor, ci sei? Allora, ci dovremmo essere. Marco. Ehi, aspetta che alzo il volume, non vedo niente, qua abbiamo rivoluzionato tutto, quindi è un macello. Qual è il volume? Questo, prova un po'. Sì, guarda, vede, l'apparecchio omologato, scusa. Ho fatto sparire tutto perché... Sì, ti ascolto, allora 9.25, la modulazione è proprio da omologato, però ti sento, cioè nessun problema, capito? Non ho capito dei 2 watt e poi ho sentito quello di sopra. Quello di il televisore che gli mancano i colori e si vede tutto messo male. Il decoder che ti accorgi. Esatto. Oh. E praticamente ho pisciato con questo qui. Domani lo chiamano in casa. Ma chi? Quel mezzo delinquente? Quello scoppiano, allora. Adesso mi sta rompendo il coglione. Adesso vuole la guerra, allora faccio la guerra. Mamma mia che gente ignorante, non se ne esce più là. Sì, ti ascolto, certo la modulazione è nata lì. Ricordati di parlare vicino, magari un po' di taglio al mic, di 3/4. Però ti ascolto, non c'è nessun problema. Certo, se entra uno con la modulazione forte, devo stare alza bassa, tutto lì. E qua ci abbiamo avuto un problemino a una colonna montante. E quindi eravamo in mezzo cantiere qua, oggi si è risolto, però ero, non mi sentivo neanche bene. Mi dica, anche io sono qui. Ah beh, l'importante è che funziona questo omologato, almeno quando vengono a controllare si attaccano al campo, all'alimentazione e all'antenna ci ha attaccato solo questo. Ma chi viene a controllare, chi viene? Che quel babbeo vada a comunicare alle forze, cioè a fare la segnalazione alle forze dell'ordine o all'escoposto, ma no? Perché tu, ti ho detto, tu nell'incertezza, tu prima spara e poi fai domande. Già lo chiamano i carabinieri domani. Ascolti, racconta un'altra prodezza. Cos'altro hanno combinato quei coglioni dei muratori? Questa è roba vecchia, praticamente la colonna montante della cucina, no? Era visibile perché si vede il bicchiere, la svasatura del bicchiere dove si innesta l'altro tubo, no? Quindi era visibile, bastava segnare anche per terra col gesso l'ingombro massimo, andare oltre e tutto sarebbe andato bene, no? Allora, ieri è comparsa una perdita improvvisa di acqua nel balcone. Praticamente loro quando hanno messo i pannelli, bucando, hanno bucato la colonna montante, un po' di lato, ma è proprio bucata da una parte sola, no? Cioè non l'hanno attraversata tutta, bucando anche l'altra parte. E abbiamo tolto un riquadro di pannello, controllato e sì, hanno fatto il buco sulla colonna. Certo, loro credevano di andarci larghi, invece sono andati a beccarla di striscio, e di striscio non tanto. Quindi, come dicevamo, sono dei cipito, proprio dei cipito che non sanno fare il loro lavoro, e questo è il secondo danno fatto. Una fara di gabbo, poi non si vedono da mesi, sono spariti all'orizzonte, non si sa niente. Perché non avevano soldi le aziende, perché gli hanno tolto i finanziamenti delle banche, hai capito cos'è il discorso? Sì, però i lavori privati, il pannello è una cosa, vabbè, però i lavori privatamente pagati a metà, che loro dovrò fare, non ho fatto una minchia. Cosa hanno messo? Hanno messo un pochino di intonaco su quello resistente, cioè da contratto dovevano scalzare, vecchio intonaco con la vecchia pittura e poi rifare tutto bene. No, hanno intonacato su quello preesistente. C'è una mezza truffa. Quindi il lavoro già pagato a metà, potevano continuare a farlo, capito? Ma è una cosa folle, guarda, è una cosa folle. Lasciamo perdere. La schiappini è toccata. Eia, ui, c'ho la vescica che comunque funziona tutta la tariffa. Io adesso vado e oggi sono proprio aici. Non mi sono vestito, non sono uscito né niente. Ho fatto solo da mangiare, l'unica cosa buona. Per il resto sono un naufrago, ho la barba lunga, i capelli lunghi, ui. Non ho combinato nulla oggi. Fregatene, cosa sia la mica lunga. Fregatene. Ehi, guarda, per fare la pipì va bene anche corta. Cappa, ma mi sticcio come solo verbale, spero. Però domani lo chiamano i carabinieri, perché mia moglie ha avvertito quella microscopia. E allora lo chiamano in caserma. Il suo numero di telefono è tutto, basta, non l'abbiamo già chiamato a questo tronco. Vedrai che mi rimasero un attimo, non mi rimasero. Un telefono, un decoder che l'hanno fabbricato 13 anni fa, mi stava dicendo Adriano, perché siamo stati a controllare, e questo decoder è 3D Cult, con un baracchino che spara 2 watt, perché stavo usando 2 watt. Sì, ma infatti io quello che ho sempre detto, è un problema loro, è un problema loro, io all'infinito lo devo ripetere, c'è bisogno di ripeterlo a loro però, Però vedo che loro non hanno intenzione di risolvere il loro problema e allora ascolta, dagli una corda insaponata possibilmente e poi il resto già lo fanno loro. Ma se la mia gliel'ho staccata, io sono andato con la pubblica e gli ho tagliato il filo, adesso se la guarda col cazzo. Ah, perché era collegato alla tua, anche lui? No, non l'avevo collegato io, l'ho speso 50 euro di materiale, manco grazie, ma poi mi sono sbattato pure la pubblica e gli ho tagliato il filo. Adesso la guardavo l'antenna sua qua. Ho trovato un televisore, si vuole lampato, vuole portato via, c'ha i colori, cazzo, gli mancano dei colori a questo televisore, si vede tutto male, non so come spiegartelo. Figurati, ma guarda, te l'ho detto, io ho provato a fare TVI qua, in tutti i modi, niente da fare. Nulla, ho provato a fare proprio, messo la portante lineare, senza tutto quello che vuoi, bloccata la portante col mic da tavolo, sono andato a carrellare tutti i canali, almeno i primi, quanti sono? 56, quello che guardo io, alla fine guardo quelli dove ci sono i film, le televendite, quelle menate non mi interessano, beh, tutti i canali si vedevano bene, non c'era problema. E non solo, la portante era anche modulata, era modulata perché gli ho messo il cellulare a riprodurre musica. Niente, non c'era modo di disturbare da me. E quindi, per l'ennesima volta, questi non la vogliono capire, ascolta adesso, pazienza. Ma vogliono capire, vi la posso comprendere io, vi la posso comprendere. E non ci venga qui a rompere le palle, ma ho usato il cuffio mia bocca e mi ricavo, mi devi schiacciare con i denti, mi ricavo. KK, non c'ho manco fiato oggi per parlare, sono proprio i minimi termini. Credo che non ce n'ero nemmeno, mi mangio dei frutti, latte, roba così. Morbida, morbida, soft e boh. Quindi funziona, certo, Natalia, non posso dire che sia una durazione. Mi vuoi un po', c'ha quei microfonini che chiamarli microfoni è una vergogna, capsule economiche. Però, sai, quello serve solo ad avere l'omologato da mostrare in caso di controlli. È ovvio, no? Io ce l'avevo uguale a quello, uguale. Però non so che fine abbia fatto. Non so che fine abbia fatto. L'ho prestato e si è smaterializzato. Non fa niente. Non mi mancano i baracchini. È solo questo. E se canali, ma se no, non lo posso mettere perché per bello è le pretese che hanno. Cioè, fra un po' ti chiedi di comprare o il decoder nuovo o il televisore nuovo direttamente, così vede bene. Boh. Ecco perché i CB vengono visti male però da molte persone, perché fanno l'equazione o l'uguaglianza, come si chiama, baracchino uguale disturbi, capito? Senza pensare che magari il baracchino non emette disturbi né spurie, ma dipende dai loro impianti, però a parlare, a lavorare a testa all'asino non si perde solo tempo, lo sai. Adesso vediamo come va, vengano a controllarli così. No, sarebbe il colmo che venissero davvero a controllare l'ennesima volta. Però scommetto che se li interpelli per le portanti non si degnano di muoversi, capito? Non si degnerebbero. Non abbiamo mai provato, però secondo me non muovono nemmeno le chiappe dalla poltrona. L'amico mio, proprio amico, che era maresciallo di carabinieri, questo qua, e non mi risponde, se no l'avevo fatto da un cassetto nel buco da Edo. Va bene, chiedi se paga il canone almeno, se lo paga il canone TV, se esiste ancora. Io sono rimasto che si pagava in bolletta, poi non ho più saputo niente, no, non mi sono proprio interessato. Mia moglie lo sta pagando, se lo paga lui non lo so. Adesso veda lui cosa vuol fare, se mi vuole denunciare, mi denuncia, lo possiamo. Ma poi in quali termini avete battibeccato? Per caso minaccia ha fatto? Sarà minacciato fisicamente, minacciato, se lo farà denuncia è boh, però le cose quando vanno fatte si fanno, non che si bisticcia una volta, poi due, poi tre, e non si denuncia mai. No, se mi rompe le palle sono cazzi suoi adesso, troppo ne ho anche perché poi uno arriva al limite di sopportazione, no? Capito? Gli può scappare anche il dito, che ne so io. Io sono già arrivato al limite di sopportazione, quindi non sopporto manco a me, perché se mi suono al campanello gli ho fatto un qualcosa per facergli la testa, brutta. Deve attrivi assolutamente a venire qua. Può disturbarmi in qualsiasi modo, non ci deve neanche provare. E via, aggiungo un preso. E quando è successo questo? Mattina, pomeriggio, sera? Sera, stasera, sono andato con Adriana a controllare, a vedere se aveva fatto qua. Invece il televisore vuole buttato lui. Il decoder mi ha coincidato, anche fatto 13 anni là. Hanno fatto 13 anni fa questo decoder, mi ha colpito. È un baracchino che stava trasmettendo con due va. Perché lo posso dimostrare, quel baracchino dà due va alla minima potenza. Perché l'ho misurato qui. Adesso questo qui non so quanto mi sia sostenere. Via. Bene, quindi funziona tutto Natalì, certo il segnale va bene 9.25, dai, diciamo che questa non ha picchi di modulazione, quindi con l'altro, anche se 2 watt c'è cioè un po' più picchi e arrivi a un 9.25 pieno, ma a voglia non ti basta, 9.25 non ti basta, il fondo scala è 9.30, quindi cappa. Ok, io quasi chiuderei, Natalì, sentiamo migliori occasioni, dai, c'è qua, giornata strana. Ok, vabbè, già ci siamo, tanto grazie per quelle cappa, là. Adesso mi devo fare l'iniezione. Ci sentiamo, dai, Marco, grazie. Io appena, cioè quando posso entro in radio, quando capita, mi domani, dopo domani, non lo so. Ok, ciao Natali, saluto in famiglia, non ti dico non te la prendere perché è difficile non prendersela, cioè se ti rompono le balle una volta, due, cinque, dieci volte, alla fine uno sbarella e Esatto, sentiamo, buonanotte Marco, grazie. Salutoni a te e a mamma tua, alle prossime. Aspetta, non arrivo, una curiosità, proprio in FM. Come che si mette in FM in tutti i non me la metto. C'è un tasto chiamato AF, A/F, una cosa del genere. Aspetta che, allora io ora sono in FM, vedi se mi copi, sei giusto? Vediamo un po', la timbrica è quella, il microfonino è molto economico, troppo, la timbrica è quella, però sarà un passaggio lungo. Ho dovuto alzare solo un po' il volume perché sai quello è chiuso, cioè mentre la normale deviazione dovrebbe essere quella, il minimo sindacale 2 kHz da 100, no? Cioè 2,1 kHz o 2,2 kHz, quelli di solito di fabbrica escono a 1 kHz, 1,2, è proprio stretto, capito? Troppo stretto. Infatti tutti i baracchini omologati e non necessitano di quella regolazione perché escono veramente bassi di radio, capito? È necessario, anche quelli non omologati, gli fanno l'FM chiusissimo, chiusa, e così anche la M. E uno dice, ma se non è omologato che te frega di averlo stretto di modulazione, cioè mettete tua manetta, no? O almeno il giusto in FM, poi non deve superare certi parametri, siamo in un pasticcio. Ok, va bene, funziona, ricordati di rimettere M, ok, ciao Natali, buonanotte. Adia, se ci sei, chiamami dall'altra parte.